Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi invito ancora una volta a pazientare un po' in attesa delle risposte. Le mail che ci giungono sono numerose e spesso interessantissime. La seconda informazione di servizio riguarda invece il mio blog, come sapete, sull'home page del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri e come ormai da tempo siete abituati a sapere, io tratto di legalità, così come faccio in radio e nel giornale, e di criminalità organizzata. Allora, proprio sul mio giornale, sul Sole 24 Ore, circa un anno e mezzo fa, ho condotto con un collega, il collega Beppe Oddo, una lunga inchiesta e meticolosa inchiesta sulla privatizzazione dell'acqua in Sicilia. Una privatizzazione ostacolata, molto ostacolata dai comuni, da molti comitati che si sono fatti portavoce della necessità di mantenere l'acqua come bene pubblico. Ci sono stati ricorsi, sentenze, nuovi ricorsi, ad esempio ultimamente il TAR del Lazio si è pronunciato su un ricorso presentato dal comune di Caltavuturo in provincia di Palermo. Ebbene, la storia non è finita perché adesso si pronuncerà il Consiglio di Stato. Insomma, i sindaci siciliani, moltissimi sindaci siciliani, si ribellano a questa privatizzazione. Tra quelli, tra gli ultimi dei moicani, diciamo così, che continuano a resistere, c'è un sindaco che si trova in una splendida località, Menfi, in provincia di Agrigento, un sindaco che ha un rapporto curioso con l'acqua, perché da una parte il suo comune ha ricevuto ancora una volta nel 2009 la bandiera blu per la qualità delle acque, quindi della balneazione, dall'altra parte, e lo sentiremo proprio della sua viva voce, è il sindaco di Menfi sale sulle barricate contro quello che ritiene un vero e proprio abuso. Buongiorno sindaco Michele Botta. Buongiorno a lei, siamo qui a Menfi, come ha detto lei, una splendida cittadina della provincia di Agrigento. Esatto. Una cittadina che ormai sta diventando il simbolo della lotta contro la privatizzazione. Esattamente, allora io direi di partire per gradi, cercando di far capire ai nostri radioascoltatori che non sono siciliani, ma che sono del resto d'Italia, perché ovviamente, e lo abbiamo letto anche ultimamente con delle approfondite inchieste sul Corriere della Sera, per far capire perché per voi l'acqua è un bene pubblico, quindi perché dalla Sicilia parte la rivolta alla privatizzazione del servizio idrico. Prego. Sindaco. Guardi, noi partiamo da un presupposto, che l'acqua è un bene che non può essere mercificato e su questo credo che non ci possano essere dubbi. Poi noi abbiamo un servizio idrico che a detta di tutti è tra i più efficienti e i migliori in assoluti, perché grazie ai precedenti amministratori noi siamo riusciti negli anni a recepire pozzi, a permettere che la nostra rete idrica fosse funzionale, a garantire un prezzo per quanto riguarda il costo dell'acqua accettabile. È un servizio sicuramente molto ben gradito dai nostri concittadini. Ecco, quando dice noi, ovviamente non intende dire noi amministratori della Sicilia, ma intende dire noi amministratori della provincia di Agrigento. Perché come la provincia di Agrigento, ecco. Sì, la provincia di Agrigento purtroppo, pur essendo una delle più assetate d'Italia, ha garantito, grazie ad amministratori oculati, una distribuzione delle acque, una ricerca e una minore dispersione come succede in altre zone, permettendo un servizio adeguatissimo. Ecco, io questo lo dicevo, lo specificavo, perché come lei sa, invece, ahimè, nel resto della Sicilia la rete è un colabrodo, fa acqua da tutte le parti, mi scusi il gioco di parole, quindi voi siete eventualmente un po' un'eccezione nel panorama idrico siciliano, ma anche nazionale, oserei dire. Sì, noi siamo un'eccezione nello scenario nazionale, ma siamo anche un'eccezione nella nostra provincia, perché la nostra provincia era gestita in diversi comuni, alcuni in house, cioè ognuno gestiva il proprio servizio, altri erano sotto l'EAS, l'ente acquedotti siciliani. Sì. Con la costruzione del Iato, coloro, i comuni che erano sotto la gestione degli acquedotti siciliani sono stati costretti a passare al privato. Ecco, allora a questo punto lei, diciamolo, perché così con immagini allegoriche riusciamo a farci capire anche meglio dei nostri radioascoltatori, no? Lei sostanzialmente, io leggo un comunicato stampa del vostro stesso comune, vi rifiutate in buona sostanza di consegnare gli impianti alla gestione privata, ora che sia di Girgenti Acqua e di altre poco ha interesse. Comunque voi vi rifiutate di consegnare gli impianti e questa è una cosa importante, perché se voi non consegnate gli impianti, cioè le tubazioni, in buona sostanza il privato come fa a gestire la rete, cioè il servizio idrico? A che punto è quindi questa vostra protesta? Ecco, la nostra protesta non è una protesta semplicemente ideale, è anche una battaglia ideale, una battaglia di diritto, ma è anche una battaglia supportata da problemi di ordine amministrativo e legale, perché noi abbiamo in corso un ricorso, scusi il gioco di parole, certo. Gioco di parole nei confronti del gestore, in quanto abbiamo ritenuto illegittima l'aggiudicazione a questo gestore della gestione del nostro servizio idrico, e c'è proprio, come dicevo, un ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo del quale siamo in attesa di un giudizio per capire se le nostre rimostranze sono giustificate. Ecco, il Consiglio di Giustizia Amministrativo, ricordiamolo ai radioascoltatori che non sono siciliani, è l'organo di appello, è un po' come nel resto d'Italia il Consiglio di Stato, perché noi abbiamo fatto ricorso al TAR. Esatto. Il TAR non è entrato nel merito, però ha detto che ha rigettato in prima istanza il nostro ricorso perché bisognava attuare dei piani industriali da parte della società gestiva, che dovevamo fare ricorso a finanziamenti e quant'altro, cosa che in ogni caso non si è realizzata, ma noi andiamo a protestare per il modo con cui è stato gestito il tutto, una società che praticamente era l'unica che si è presentata alla gara, una società in cui ci sono presenti, c'è un conflitto di interessi notevolissimo perché sono presenti delle società che fanno capo ad altri comuni della stessa provincia. In ogni caso aspettiamo questo ricorso. Ecco. E nel frattempo abbiamo iniziato anche un'azione di sensibilizzazione nei confronti della nostra regione, invitando tutti i capigruppo regionali a prendere una posizione a nostro favore, andando a portare in aula una legge che potesse permettere la ripubblicizzazione dell'acqua. Allora, io le chiedo questo, Sindaco Botta. Allora, io vorrei cercare di capire quali interessi, la mia è una domanda retorica, perché ne ho scritte e quindi so quali interessi si muovono, ma vorrei che lei dicesse quali interessi si muovono dietro la privatizzazione dell'acqua. Però cerchiamo di astrarci un po' anche dalla situazione siciliana, o meglio, partiamo dagli interessi che si possono avere in Sicilia per poi invece parlare più in generale di quello che può essere l'interesse di investire nel servizio idrico in tutta Italia. Per esempio, guardi, in Sicilia quali sono gli interessi che si muovono? Io le faccio l'esempio partendo dal comune nostro. Bene. Noi riusciamo praticamente, come dicevo prima, a garantire una bolletta idrica che è una tra le più basse. Guardi, i nostri concittadini pagano 155 euro l'anno. In media, una famiglia o un singolo abitante? Andiamo per presa d'acqua. Ah, ok. In presa pagano 155 questa euro. Questa è la anno. Media, bene. Questa è la media. Media che sicuramente, da quello che sento in tutta Italia, dove già c'è la gestione privatistica, sono un terzo o un quarto di quelle che oggi sono le realtà. Ma senza andare lontano, io vedo quello che succede negli altri comuni che hanno già consegnato le reti. La provincia di Agrigento, le reti. E allora, sono aumentate le bollette, è triplicato o quadruplicato l'allaccio, cioè se uno vuole nuovamente fare un nuovo impianto e quindi allacciarsi alla rete idrica, per un allaccio si parla di cifre che vanno dagli 800 ai 1200 euro per l'appresamento. Ecco, ma questo senza che il servizio migliori, ecco, oppure il migliore? No, assolutamente, senza che il servizio migliori, tant'è che tra i comuni che hanno consegnato le reti, molti oggi affiancano la nostra battaglia perché non hanno visto né maggiore efficacia né miglioramento del servizio né tantomeno c'è un riscontro economico. Quindi è come se, facendo un paradosso, oggi il comune di Menfi decidesse di vendere una mela a 10 centesimi, la stessa mela il giorno dopo viene venduta da un banchetto di fronte alla sede del municipio ad opera di un privato e quella mela costa invece che 10 centesimi 50 centesimi. La cosa che io considero assurda è che, come dicevo prima, noi abbiamo delle reti che sono ottimali, un servizio che è ottimale. Noi dobbiamo prendere tutto e darlo in mano a persone che non sanno possibilmente dove andare a mettere le mani. Ecco, io mi fermerei qui, Sindaco Botta, e la ringrazio per il suo intervento perché, ahimè, il tempo è scaduto, ma ovviamente per questo, come per altri temi, continueremo a dare seguito agli interventi. La ringrazio ancora per la sua chiacchierata. Dico grazie in regia a Filippo Aureggi e in studio di Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.